adesso tutti concentrati, mettetevi comodi, è cominciato, l'attesa è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ronaldo vede addirittura 4-1 a Lisbona, a casa sua, Cristiano Ronaldo. The winner is Cristiano Ronaldo. Até não ouvirmos o nome é sempre complicado, é sempre momentos de grande nervosismo. Independentemente de ser a minha oitava vez aqui, é sempre uma emoção bastante grande. E hoje, felizmente, consegui ganhar a minha terceira bola, no qual fico muito feliz. Agradecer ao Real Madrid, a todos os meus companheiros, treinador, presidente, toda a massa instrutiva do Real Madrid, foi muito importante nesta conquista. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Buonamici in redazione. Non ha ancora tempo per voi portieri, anche quando fate la differenza, come Neuer, campione del mondo con la Germania, contano di più, ma non è una gran novità, i gol di Cristiano Ronaldo. Ci può stare. Giovanni Galli, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ciao Giovanni, grazie. Non una gran sorpresa, onestamente, questo voto un po' politico, no? Cristiano Ronaldo, i suoi gol, la sua forza, la sua bellezza come giocatore, Neuer sul secondo gradino del podio e come miglior tecnico si vota il CT campione del mondo. Allora, no, purtroppo ti devo correggere, perché Neuer non è arrivato secondo, sì, addirittura è arrivato terzo. Terzo, sì. Ecco, questo secondo me è la grande ingiustizia, cioè, perché credo che al di là di quelli che sono i valori, assolutamente, l'interpretazione, la fantasia, la potenza, perché qui si sta parlando di tutto quando si parla di Neuer, ma anche quando si parla di Cristiano Ronaldo. Diciamo l'enfasi è sempre relativa al gol che la squadra fa, piuttosto che alla parata, no, del portiere che salva il risultato. Nella mente di tutti rimane quello. Ricordiamo il mondiale dell'Italia, campione del mondo. Tutti i gol di Paolo Rossi vengono ripetuti, sì, a centinaia di volte, a migliaia di volte. La grande parata che ci ha portato alla semifinale di Dino Zoff sulla linea di Oscar sul gol Brasile, forse certo. Se lo ricordano in tre, no? Io sono uno di quelli, perché no, ma lì, anch'io, ecco. Sì, lì io no, l'ho visto in televisione, però me la ricordo come se fosse ora e ho l'immagine ferma in mente. Ma d'altra parte, sai Giovanni, gli americani lo sai meglio di me, dicono la difesa ti fa vincere i campionati, l'attacco ti fa vendere i biglietti, gli attaccanti ti fanno guadagnare i palloni d'oro, no? Perfetto, e difatti si arriva a questo. Se avessero dato il pallone d'oro a Messi a scapito di Neuer, mi sarei decisamente molto arrabbiato. Sì, chiaro. No? Ma ha vinto Cristiano Ronaldo, capocannoniere della Champions, con il record dei gol segnati in una competizione, con 50 gol fatti a campionato. Vai a vedere i numeri nel Real Madrid: 270 partite giocate, 280 gol fatti. Cioè, qui si sta parlando di qualcosa di inumano, cioè, sì. Siamo di fronte a un terrestre, no, con questo giocatore. È vero anche che uno dice sì, però l'altro ha vinto il mondiale, ho capito, ma uno gioca nel Portogallo, sì, e l'altro gioca nella Germania, i parametri credo che bisogna valutarli a 360 gradi. Mi dispiace per l'amico Carlo Ancelotti, perché credo che abbia fatto un'impresa nel mettere insieme, e la sta facendo ancora di più quest'anno. È vero, hai ragione. Nel mettere insieme così tanti solisti e rendere una squadra di solisti una squadra, sì, credo che sia un'impresa Stellare, impresa stellare. Poi sai, ci sono quelli che dicono vabbè, facile però vincere con quella squadra. No, perché non è facile mettere insieme 20 aziende, perché quei giocatori sono delle aziende, 40 procuratori, ognuno che ti tira per la giacchetta, presidente compreso. E prova tu a metterli insieme e magari a farli anche giocare a pallone. E magari farli anche vincere. Gio. Se non è così tanto, così semplice, cioè, non dimentichiamoci che questa squadra è andata nel campo, no, della squadra più forte, o perlomeno che poi ha vinto il mondiale, perché non dimentichiamo che il Bayern di Monaco ha vinto il mondiale. È l'ossatura della squadra che ha vinto il mondiale. La squadra Real Madrid di Carlo Ancelotti è andato all'Allianz Arena e gli ha dato 4 pere. Insomma, dire, ecco, intanto questa è un'altra valutazione. Tornando in merito, credo che effettivamente Neuer oggi esalti il ruolo, renda orgoglioso qualsiasi interprete del ruolo, del passato e del presente. Del futuro non lo so, perché può darsi che possa nascere qualcos'altro, no? Il calcio ha un'evoluzione tale che non si può però mai... È davvero il portiere 2.0, l'essenza della modernità in porta. Giovanni, io ti posso chiedere un attimo di pazienza per il traffico, poi vorrei chiudere il discorso su Cristiano Ronaldo e su altri due fronti che ti interessano. Uno è il Milan e l'altro è il Napoli. Traffico. No, guarda, faccio una battuta, se devo scegliere meglio arrivare secondi oggi che è la finale di Lisbona, tanto per essere chiari, no, ma sono contento per lui, credo che oltretutto anche, sono contento anche per Löw, perché ha vinto un mondiale, non solo ha vinto, ha stravinto giocando bene a casa del Brasile, quindi alla fine dei conti lo meritava. Per un allenatore i premi personali, soprattutto per me, non hanno la importanza che può avere invece per un giocatore come Ronaldo, come Messi. Tutti convocati. Giovanni Galli, io ho letto con molta attenzione e condiviso come non mai l'analisi di Paolo Condò, il nostro giurato italiano della Gazzetta dello Sport, nostro amico giurato italiano del Pallone d'Oro, perché ciò che stupisce di Cristiano Ronaldo, come ne parlavo ieri con Vincenzo Martucci a proposito di Federer, ciò che contraddistingue questi grandi, queste superstar epocali, Cristiano Ronaldo e Federer e Michael Jordan nel basket, è questo concetto che scrive Paolo Condò. Ogni mattino Cristiano Ronaldo si sveglia con la stessa idea in testa, sempre più difficile da realizzare, cioè come migliorare ulteriormente la fantastica macchina da calcio che è già. In genere un simile tormento ti rovina la vita. Ma cioè, forse a quei livelli, devo dirti che io nel mio piccolo, che è quello che ho sempre cercato di trasferire ai giocatori con i quali, insomma, che ho avuto nelle mie squadre passate, è sempre stato quello. E quando parlo ai giovani, quando mi trovo a parlare nelle scuole, si parla inevitabilmente di calcio, credo che l'importante è andare tutti i giorni all'allenamento con un obiettivo, con l'obiettivo di migliorare di un centimetro il proprio stacco, di migliorare la parata, parlo del ruolo, di migliorare la parata, di darsi sempre comunque l'obiettivo quotidiano. Il giorno che pensi di non dover più migliorare è il giorno che devi smettere di giocare. Certo, questo si chiama amore per il gioco? Si chiama, diciamo, amore, ora non voglio essere narcisista, ma amore per se stessi, per la propria professione e per soprattutto rispetto per coloro che ti danno la possibilità di svolgerlo questo lavoro. Certo. Voglio farti sentire due dichiarazioni, una è di Gattuso e l'altra è di Abbiati, e poi ti chiedo una cosa sul Milan. Io dico sempre che il Milan bisogna rispettare, grande rispetto per la famiglia Berlusconi, Galliani, perché per tantissimi anni hanno costruito un Milan competitivo. Ci sta che in un momento che le aziende non vanno benissimo, l'economia italiana non va benissimo, ma non solo quella italiana ma quella europea, ci può stare che la squadra non attraversa un buon momento e che non arrivano i campioni. Io penso che per vincere le partite ci vogliono i campioni, giocatori forti e bisogna spendere tantissimi soldi, e penso che fin quando non ci sarà denaro da spendere nel Milan è duro. La cosa che mi può dar più fastidio a me è che le squadre vengano a Milano e iniziano a pensare dai che ce la giochiamo. Invece prima le altre squadre, prima arrivavano a San Siro, dicevano speriamo di non prenderne 5. Deve tornare a essere così. Gattuso e Abbiati, Giovanni Galli, il Milan e i tormenti del giovane Pippo. Il Milan sembra una a Torino aveva tutte le caratteristiche di una provinciale, ma di quelle nemmeno troppo forti. Ne parlavamo ieri con Mondonico. Sì, in effetti il Milan nel giro di 3 anni, no, ha subito diciamo dei contraccolpi straordinari anche sotto l'aspetto psicologico, e mi riferisco alla partenza di Ibrahimovic, alla partenza di Thiago Silva. Quelli sono stati i primi messaggi. È logico che probabilmente, io mi leggo un attimino, no, a quella che è stata, se vi ricordate, la polemica fra Barbara Berlusconi e Galliani, no? Che insomma, fra di loro, ma credo che tutte e due avessero ben chiaro e avessero presente, poi magari le interpretazioni sono state date di vario genere, sì. Dove logicamente Barbara Berlusconi dice benissimo, fino ad oggi noi eravamo quelli che ricevevamo tutti i procuratori del mondo, perché tutti i procuratori del mondo il primo campanello che suonavano era quello del Milan. Oggi dobbiamo essere una società che va a cercare i giocatori in giro, per cui ricreare una rete di osservatori. Dall'altra parte Galliani giustamente dice bene, non è che dall'oggi al domani una cosa è fattibile, dobbiamo comunque continuare, no, ad essere competitivi con dei budget decisamente diversi, ma al tempo stesso iniziare un percorso alternativo. Ecco, questo credo che sia successo al Milan, cioè dall'oggi al domani gli hanno tolto Ibrahimovic e Thiago Silva, e poi quell'anno lì hanno smesso contemporaneamente Nesta, proprio Rino, sì, Gattuso, sì. Cioè, lì c'è stata proprio una, no, un'epidemia, sì. No, un'epidemia di giocatori, sì. Per cui insomma forse il Milan non era ancora pronto e preparato per trovare i sostituti all'altezza. Credo che oggi serva certamente non tanto l'abilità e non soltanto l'abilità di prendere i giocatori svincolati, ma soprattutto di avere quella pazienza che purtroppo forse la proprietà non ha, di aspettare per poter costruire nel giro di 2-3 anni una squadra che possa tornare ad essere competitiva per 20 anni. Certo, ma anche perché poi non vai in Champions League, non hai i quattrini, bravo, il club si svaluta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è un circolo abbastanza vizioso. Bravo, però se si parla chiaro, no? Benissimo, dateci 2 anni di tempo, e dei 2 anni di tempo noi torneremo ad essere protagonisti. Probabilmente anche il tifoso accetta la partita di Torino. Sì, sì, sì, è chiaro. Ecco. È chiaro. Altrimenti, se si parla sempre, andiamo in Champions, possiamo lottare per il titolo, noi siamo il Milan, sì, anche l'Ajax è l'Ajax, anche l'Ajax, ma va l'Ajax sempre fuori al primo turno di Champions. Hai ragione Giovanni, hai ragione. Se, un'ultima cosa, hai condiviso le polemiche napoletane, altra squadra del tuo passato nell'ultimo weekend, hai condiviso le parole di De Laurentiis e le polemiche napoletane? Ma certamente io ero a vedere la partita, mi sono trovato effettivamente anche in difficoltà, perché errori di questo genere di facile lettura, perché un conto se c'è un incrocio di due giocatori, un conto visto c'è il centimetro, il sì, naso, sì, che è ma lì su una situazione da fermo, no, poi mi vengono a dire serve la moviola in campo per fare che? Cioè più che allora la difficoltà, premetto un attimo, dico un inciso su questa cosa, la moviola in campo dice la utilizzano nel basket, nel football, sì, però si parte sempre da situazioni da fermo, non puoi utilizzare la moviola situazioni durante dinamiche di gioco, perché sennò, se poi dopo aveva ragione l'arbitro, cosa fai? Una squadra che è partita in contropiede, no, cioè, è una situazione non facile, attuazione. Ma quanto riguarda un calcio di fuorigioco di domenica, ecco, lì credo che ci sia stata una topica o una difficoltà veramente del guardialine di segnalare un fuorigioco, perché voglio dire, li hai davanti, non hai nessun, la palla che parte da fermo, da una situazione da fermo, beh, credo che lì abbia fatto un errore colossale. Sul gol di Gigi Buffon, io ho sottolineato e ho anche a Gigi proprio in diretta televisiva che è vero che lui si va a scontrarsi contro Koulibaly, e Koulibaly probabilmente non si è reso conto di cosa era successo una frazione di secondi prima, perché Gigi Buffon nel momento in cui esce in perfetto stile viene sbilanciato e perde la coordinazione da Chiellini. Si scontrano Gigi Buffon e Chiellini, lui si perde, ripeto, la coordinazione, va a sbattere addosso a Koulibaly e perde la palla. Sì, questa è un'interpretazione, certo, noi l'abbiamo vista alla televisione, no? Qui c'è più giustificato l'arbitro, assolutamente, perché non è così semplice, mentre sul calcio di punizione secondo me non ci sono scuse, ha sbagliato clamorosamente. Grazie Giovanni. Ciao, grazie a voi. Ti abbraccio, Giovanni Galli. Allora, sapete perché ha votato Ranieri? Ha votato allora come tecnico della Grecia, torniamo al discorso del pallone d'oro. Vabbè, per quanto riguarda il giocatore ha votato per Neuer, ma per quanto riguarda l'allenatore, sapete perché ha votato Claudio Ranieri allora città della Grecia? Gedin, allenatore di Malta. Ci può stare. Buffon, ma questa non è una sorpresa, l'aveva già anticipato, l'aveva già detto, ha votato per Cristiano Ronaldo e non per il collega tedesco. Qualcuno ha anche adombrato l'ipotesi e l'idea dell'invidia. Invece il capitano della Mongolia, spero di leggere in maniera corretta, Baysgalan, capitano della nazionale della Mongolia, nella categoria allenatori ha votato per il signor Antonio Conte. Ci può stare. Giovanni Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Carlo Genta, grazie a Radio 24 per questa opportunità. A lei, dica. Niente, purtroppo nel calcio non esiste il non tifoso, ho ascoltato adesso Galli e anche lui parla come tifoso purtroppo. E voglio dire questo, io per quanto riguarda le dichiarazioni di De Laurentiis, se volevo ricordare che 2 anni fa Samoa a Napoli ha subito dei vetri in faccia, il giorno dopo De Laurentiis si è preoccupato, è andato di Allegri per poter evitare la sconfitta a tavolino, alle 8:30 si trovava lì. E poi dopo abbiamo subito da parte dei tifosi del Napoli un assalto a Catania. Quindi lei allora è d'accordo con Nicchi, che dopo sentiremo che ieri ha detto le dichiarazioni di De Laurentiis istigano la violenza? Mi riferisco proprio a questo, proprio a quello che ha detto Nicchi, perché Allegri dice noi non entriamo nei dettagli di quello che succede dell'arbitro, perché devono stare tranquilli gli arbitri, che non sono tranquilli gli arbitri. Prendiamo la Roma le ultime 4 partite, le 2 trasferte uscite dai fischi, non erano tifosi juventini a Udine e a Genova che fischiava la Roma, in casa ha recuperato 2 partite 2-0, perdeva il primo tempo e non tutti e 2 risultati di pareggio sono tutti discutibili. Cioè, se noi troviamo società come la Roma e Napoli che usano questa strategia per condizionare questi poveri signori che vanno lì, che hanno paura di arbitrare, non sono solo la Roma e il Napoli, è una strategia piuttosto conosciuta, no? È una strategia che, ad esempio, l'ho detto molte volte, Mourinho conosce a memoria, l'ha usata di recente anche in Inghilterra, senza andare troppo lontano. Quindi è una strategia chiara, nota. Da lì a sentire il capo degli arbitri dire le dichiarazioni di Laurentiis istigano la violenza, una persona in condizioni normali, pur tifoso, non si fa prendere la mano da dichiarazioni di questo tipo, almeno secondo me. Michele da Roma, ce la facciamo prima della borsa? Sì, dai Michele, buongiorno. Buongiorno, mi riallaccio proprio a questo discorso, perché che Napoli o Roma usino questa strategia è noto, Garcia si è addirittura reso antipatico ultimamente, addirittura anche sulla piazza romana per questo suo strumentalizzare certi episodi, ma quello che mi colpisce e come vengono strumentalizzati dai media, perché la Juventus segna il secondo gol in fuorigioco a Napoli, millimetrico, tra l'altro se guardate bene il guardiano sbaglia perché sta guardando la palla quando tira Pirlo, il guardiano non è neanche posizionato nella migliore dei modi, non riesce a vedere più. Ma questo episodio diventa mastodontico. La Roma segna il gol che la rimette in partita nel derby dopo due falli sui giocatori della Lazio, con Totti in fuorigioco, che io vedendo la partita in televisione avevo notato. A me non sembra in fuorigioco. Non era osservata. La cosa è non era in fuorigioco Totti. Michele, non era in fuorigioco Totti, poi si è molto discusso invece su quei due interventi precedenti. Vabbè, ma secondo me è normale dinamica dell'azione. Secondo me quel gol è regolare per la posizione di Totti. L'arbitro non ha fischiato probabilmente il contatto falloso di Astori c'era. Sono cose che succedono mille volte all'interno di una partita, ma mille volte. Poi ci può essere la situazione in cui dalla montagna cade il rivolo che porta al gol. Ci fermiamo adesso, sì, per la borsa 800240024, vostro numero verde. Mi dicono che stia arrivando Pardo, sarà qui verso le 15. Mi dicono. A dopo. Partita in bilico. Stop per noi. Tutti convocati. Io dico che per quanto riguarda le dichiarazioni che persone esperte e mature come sicuramente il Presidente fanno, ne rispondono direttamente eventualmente alla Procura Federale, non sono io che debbo censire quello che viene detto o censurare meglio ancora. Dopodiché dico semplicemente che nel calcio purtroppo spesso accade che si dice quello che si pensa senza pensare a quello che si dice. Nel senso bisogna stare molto. Si scrive addirittura. Sì, a volte anche si scrive, però bisogna stare molto attenti perché in un momento così difficile e particolare del mondo, del paese, ogni dichiarazione sopra le righe può generare violenza e voi sapete quanto è pericolosa la violenza nel calcio. Non mi pare che ci sia aria di sospensione come è accaduto con Rocchi dopo Roma-Juventus per Tagliavento. Ripeto, non lo so, ma io in questo momento non ne vedo il motivo. E questo era Marcello Nicchi, presidente degli arbitri, con Variale ieri sera. Censire, censurare, vabbè, generare violenza per le dichiarazioni e per i tweet. Io penso che non ci sia un tweet, una dichiarazione, una polemica, uno strillo, un lamento che possa giustificare un solo ceffone di un tifoso dato a un altro. Mio caro amico Boris Sollazzo, esimio critico cinematografico romano, tifoso del Napoli, hai visto che non abbiamo dimenticato le buone vecchie abitudini, ti chiamiamo quando Napoli perde. Che ti devo dire, ci può stare. Come la vedi con Nicchi? Ma Nicchi francamente capisce di arbitri quanto io di fisica, anche se ricopre quel ruolo, nel senso che ricordiamo sempre che Nicchi è quello arbitro. Che disse. Però ricordiamo sempre che Nicchi è quello che disse. No, ma Rocchi, io per Roma ha arbitrato bene e qualche settimana dopo Rocchi ammise di aver arbitrato male, quindi diciamo che viene smentito persino da quelli che difende e mi sembrava una dichiarazione talmente. Quindi Nicchi è juventino. No, dice Boris Sollazzo. Sollazzo due punti, Nicchi è juventino. No, ci può stare. Neanche un po'. No, Nicchi semplicemente mi sembra un incompetente e anche un irresponsabile, perché dicendo quello che ha detto alimenta lui forse un po' di odio nei confronti di De Laurentiis, se non mi ricordo che abbia mai detto lo stesso nei confronti di Agnelli o Galliani o via dicendo, quando comunque anche loro si sono arrabbiati. Il punto è che poi viviamo in un cerchio folle in cui continuiamo a criticare gli arbitri, continuiamo a instillare il sospetto della malafede, molte direzioni di gara magari fanno anche sospettare e questo cerchio non finisce mai, non si chiude mai, perché chiaramente poi c'è chi si lamenta, poi chi viene favorito e allora lamentarsi va bene perché paga dividendi. Bisogna interrompere questo circuito. A me dispiace da napoletano che ci sia entrato anche il Napoli, lo capisco, mi sembra che due che normalmente non vanno contro gli arbitri lo fanno prima di un Lazio-Napoli contro il vicepresidente di federazione, secondo me lo fanno non tanto per lamentarsi della Juventus, ma sperando di non averne un'altra. Però funziona così, purtroppo. Prima è un gioco molto vecchio, ma poi dicevi prima c'è anche chi, come questo in questo cerchio c'è anche l'avvocato Marra che abbiamo sentito. No, grazie a voi, grazie assolutamente, a disposizione, ditemi tutto. Allora, ci spieghi bene, lei è vero che ha denunciato l'arbitro Tagliavento? Sì, sì, io ho ipotizzato in un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli la verifica se sussiste l'ipotesi di frode sportiva o di comunque condotta penalmente rilevante a danno di tutti i commissari che sono intervenuti nella partita, quindi segnalini, arbitri, arbitri di posta e tutto, nel senso che si deve accertare se c'è stata un'alterazione del risultato di gioco. Il motivo è estremamente importante perché oggi le società di calcio sono società per azione quotate in borsa e quindi ci sono interessi molto rilevanti. Basta pensare che classificarsi al terzo posto significa probabilmente beneficiare di qualcosa come 50 milioni di euro dall'UEFA per partecipare alla Champions, quindi è una cosa molto molto importante. Oggi non si può pensare più che l'arbitro possa sbagliare in modo così semplice, anche perché nel caso di specie l'azione del fuorigioco è talmente lineare e semplice che perché si parte già da una posizione di fuorigioco, cioè in effetti là non si deve fare nulla. Nel momento in cui è partito il pallone i tre giocatori juventini erano già in fuorigioco, quindi il segnalino non poteva non vedere, quindi il fatto è molto molto grave secondo me. L'avvocato Marra sa perfettamente che la Procura della Repubblica di Napoli sono lì che si girano i pollici e quindi aspettavano questa sua sollecitazione. Però, caro Boris Sollazzo, io sto, mi spiace, ma con Alberto Costa che oggi scrive nel suo commento sul Corriere della Sera, anziché prendersela con i suoi attaccanti per i loro errori di mira, invece di chiedere conto al suo allenatore di come gli fosse venuto in mente di lasciare Martens in panchina subito dopo l'inequivocabile sconfitta con la Juve, il presidente del Napoli, Laurenti, si è twittato contro la compagine arbitrale. Ma perché è un gioco delle parti, è appunto quello che dicevamo, perché un arbitro che arbitra male e che fa dei torti contro una squadra consente anche al presidente, che forse non vuole tirare fuori altri soldi per un altro acquisto, di dire vabbè, ma è colpa dell'arbitro, la squadra è forte, l'avremmo vinta. È il gioco del parafulmine. Esatto, invece probabilmente Fantozzi non l'avremmo vinta. Fantozzi, te lo ricordi, tu meglio di tutti te lo ricordi, no? Fantozzi a fare il parafulmine, esatto, sul grattacielo, è così, no? Esatto, con la mano alzata, esattamente così. Io credo di più allo sfogo di Benitez, che secondo me ha avuto, è stato riflesso condizionato, è la seconda volta che gli capita con la Juventus, poi nessuno l'ha detto, ma gli è capitato anche a Doha perché c'è stato un fuorigioco di Calleon che non c'era, che invece è stato fischiato mentre Napoli era in svantaggio, tutto quanto. E quindi secondo me anche l'irritazione di stare in un paese che non è, che non si confà ai suoi valori, alle sue abitudini, l'ha fatto uscire in quella maniera. E infatti lui poi comunque in quell'intervista in cui ha quella uscita geniale, ci può stare, quinto nei trend mondiali di Twitter e via dicendo, ammette serenamente che la squadra ha giocato male il primo tempo e che la squadra ha i suoi demeriti. Il punto è che bisogna decidere se in questo campionato noi vogliamo dare a tutti le stesse opportunità, oppure si vuole avere la sudditanza psicologica verso le prime in classifica. Io me lo ricordo, non è che mi metto dietro un dito, quando il Napoli aveva Maradona tra l'86 e il 90, Napoli e Milan avevano degli arbitraggi molto più accondiscendenti rispetto ad altre squadre. Questo perché? Perché erano squadre forti, perché prima di non fischiare un rigore a Maradona ci pensavi 15 volte. Io non vorrei più questo, ma anche quando sarò io con il coltello dalla parte del manico. Il punto invece è che ho l'impressione che tifosi, presidenti, allenatori non abbiano questa voglia, vogliono continuare a giocare questo gioco delle parti. Il problema è che la sudditanza psicologica da un lato, dall'altro lato ci può stare anche l'errore, perché non è come dice Marra che non si può, l'arbitro non può sbagliare. Però onestamente pronti via Pirlo, falso Higuain, insomma in un caso di scuola non dai l'ammonizione lì perché è Pirlo, perché la maglia bianconera è perché non te la senti di far partire la partita così. Però io il corso d'arbitro l'ho fatto anche l'arbitro per un paio d'anni, ed è la prima cosa che ti dicono nel momento in cui una partita parte così. Tu tira fuori il cartellino per far capire a tutti come andrà la partita, sì, e chi è che guida la cosa. Secondo me c'è un po' un problema, nel senso che in questo momento il Napoli, far perdere il Napoli non era un problema perché la Lazio aveva pareggiato, far perdere la Juventus era un problema molto più grosso. Siccome se fai un torto alla Juventus e rimani 2 settimane fuori, se fai un torto alla Roma non la arbitri per 3 anni, e questo vuol dire magari non diventare internazionale e via dicendo, secondo me gli arbitri sono pure l'ultimo anello di una catena ed sono anche l'anello più debole, cioè li posso anche capire. Chi di noi sul posto di lavoro non subisce delle pressioni, e quelle pressioni magari inficiano inconsciamente le nostre decisioni? E il punto è che bisogna essere tutti più seri, a partire, lo dico, dal mio presidente, che dovrebbe magari prendersela con Nicchi perché ha detto qualcosa che vale una querela, sì, ma assumersi anche le sue responsabilità e dire: abbiamo giocato male, certo mi piacerebbe a volte magari pareggiare con demerito avendo una squadra più debole, perché in quella partita meritavo di pareggiare, punto. E invece continuare questa, alimentare la cosa. A me, devo dire, per esempio, una grande delusione è stata quella di Rudy Garcia, che sembrava essere entrato in un automatismo diverso e invece poi ha capito e adesso sono 2 mesi. Ha capito che doveva seguire quel tipo di politica, magari per, esatto, avere il solito tornaconto. Grazie Boris. Grazie, ciao, a voi. Non t'arrabbiare, ciao, troppo. Ragazzi, ciao Boris Sollazzo, presto. Che ci può stare sempre. Ci può stare traffico. Ma perché? Quando si obbliga a Juventus ci fanno ingazzare e ci fanno farus. Noi volimmo vincere ma senza regalo, perché Simonest è no furbetto criminale. A prossima volta più cazzimme e meno paura, perché loro sono bianco e nero e noi è mille colore. Tutti convocati. Pola basso e schiva il sasso. Voci di corridoio incontrollate dicono che Pardo stia arrivando e dopo le GR delle 3 sarà qui. Io non ci credo fino a che non lo vedo, perché sono come San Tommaso. Giuseppe Monza, buongiorno. Sì, pronto, mi sente? Giuseppe? Sì, mi sente? Sì. Volevo solo fare alcune considerazioni sull'intervento di Giovanni Galli, che è stato sempre ammirato. Sì. Ma io non so che moviola o che film ha visto. Nel gol annullato al Napoli hanno fatto vedere tutte le moviole che l'attaccante, il giocatore del Napoli, quando si è trovato a contatto con Buffon, ha allargato il braccio col gomito e ha portato via la palla dalle mani di Buffon. Ma sì, se anche Buffon avesse già perso la palla, c'era il fallo di mano. Cioè non è ammissibile. No, guardi Giuseppe, su quello sono d'accordo con lei, l'ho detto anche ieri, ma credo poi Giovanni Galli ha la sua opinione, è giusto che la dica. Per l'amor del cielo. No, però no, ma è giusto che la dica, in modo che se ne possa discutere, però in una situazione di quel tipo 99,7 volte su 100 l'arbitro fischia fallo, quindi mi sembra la meno discutibile di tutte le situazioni. No? Certo, io però voglio ancora allargare il discorso. Se proprio dagli opinionisti parte un discorso di questo tipo, che era gol, allora Roma e Napoli continueranno sempre con quelle, dopo, anche se non sono juventino, devo condividere la prima pagina di Tutto Sport, che noia che barba, perché è sempre la solita menata, succede solo con loro. La Juventus l'anno scorso ha perso a Napoli con un gol di Calaioni fuori gioco, ragazzi, se ridiamo un po' lo sport e un po' di Giuseppe, brio, perché ho capito, però allora io sono sempre dell'idea che ognuno ha il diritto di interpretare le situazioni come meglio crede, Giovanni Galli ovviamente compreso, gli editorialisti di questo, di quel giornale ovviamente compresi, poi ognuno ha le sue idee ed è giusto che se le tenga, cioè non è che perché uno dice una cosa o scrive una cosa bisogna andare dietro a quello, cioè uno esprime un giudizio, c'è libertà di pensiero, di parola, di opinione, se Dio vuole e forse. E allora ognuno ha diritto di interpretare le situazioni come meglio crede, ma non per questo poi deve uscire qualcuno che dice: ah, però fomenti la violenza. La violenza non può essere fomentata da queste cose, la violenza non deve esistere, punto. Cioè non c'è nessun commento, nessuna dichiarazione, nessun tweet, nessuna presa di posizione che possa giustificare un ceffone di un tifoso ad un altro, perché stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi poi per il resto, ripeto, se ci sono opinioni diverse, discordanti, se ne può serenamente discutere tutti i giorni dell'anno. Marcello, provincia di Rimini, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, io volevo sapere, ma lei continuerà a parlare di quel fuorigioco per tutta la settimana? Ah, non lo so. Perché, guardi, veramente queste cose vengono strumentalizzate continuamente. Cioè, per quale motivo il Cinepanettone non si è indignato l'anno scorso con un fuorigioco di Caleon e Napoli ha vinto e noi abbiamo detto bravo Napoli, ha meritato di vincere? Oppure contro l'Inter, come mai l'arbitro e l'arbitro di porta non hanno visto una gomitata netta e ha preso 4 turni di stop ed è quello poteva essere un rigore che cambiava la partita? Ma come mai non ne parlate di ste robe tutta la settimana? Grazie, pubblico imbestialito. Come mai non ne parliamo? A dire la verità ne stiamo parlando proprio perché, come del fuorigioco, come di ogni episodio, voi chiamate e noi rispondiamo. Poi ripeto, come mai non ne parlate voi? Noi ne parliamo. Primo. Punto secondo, come mai il Cinepanettone, con ovvio riferimento casuale a De Laurentiis, non ha detto quella cosa l'anno scorso? Deve chiedere a De Laurentiis, perché se lo chiede a me io non ne so rispondere. Luca Torino, buongiorno. Buongiorno, io volevo semplicemente sapere se è possibile fare una critica alla categoria giornalisti, chiedo. Sì. Sì, ma tutte le critiche che vuole, non c'è problema. Okay. Non allora, c'è problema. Ok. Io capisco, non sono scemo, capisco che questo fa gioco a voi giornalisti, a voi tutti, parlo da categoria giornalisti, però mamma mia, è una cosa incredibile. Ma a volte, cioè, io secondo me, io dico lei, ma per indicare tutta la classe giornalistica, ma cioè, non vi rendete conto, cioè, a che punto siete arrivati nel coinvolgere una squadra? Cioè, è una cosa veramente incredibile. Cioè, quando si ottiene un certo risultato, tutti a criticare. Ma ormai la Juve è più che una squadra. Ormai la Juve sta diventando quella cosa per cui io, tifoso di una qualunque squadra, se vado a casa e trovo mia moglie a letto con uno, è colpa della Juve. Sta diventando questo la Juve. Guardi, a onore del vero è per la cronaca, Luca. Poi lei, se vuole estendere la critica all'intera categoria giornalistica mondiale, fa bene, ha ragione. La mia posizione su questo punto è quella espressa da Alberto Costa, ma che ho già ripetuto ieri, eccetera eccetera. Secondo me il dato politico, come piace dire a Pardo, della partita sta nel fatto che la Juventus l'ha giocata leggermente meglio del Napoli, ma soprattutto ha sfruttato le occasioni che le sono capitate. Poi è vero, c'è stato quell'episodio, però se continuiamo a sbriciolare le partite in singoli episodi non andiamo da nessuna parte, o meglio andiamo sempre dalla stessa parte, che poi voi ci dite, mandate sempre lì e per forza ci portate su quel terreno. E cosa dobbiamo fare? Pierluigi, Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, sono molto contento di essere stato richiamato. Grazie. Senta, io volevo parlare riguardo al discorso della moviola in campo, che spesso ho sentito nella vostra trasmissione, so che lei non è d'accordo in merito, però volevo fare solo dei piccoli esempi, come per esempio nella NBA, come per esempio nell'atletica, nel rugby e tutte questi sport, dove praticamente non esiste nessun tipo di violenza. E casualmente sono tutti sport che hanno la moviola in campo. Ora non sono d'accordo sul passaggio c'è la moviola, se non ci fosse la moviola non ci sarebbe violenza, oppure c'è la violenza perché non c'è la moviola. Lo dico subito, no, non sono d'accordo. Intendo su questo, dire che probabilmente molti animi verrebbero un attimo smorzati. Io volevo dire anche un'altra cosa piccola e veloce. Uh-huh. Le scorse Olimpiadi, nel lancio del peso, nel getto del peso per la precisione, sì, è stata presa, cioè è stato dato un nullo a un pesista che ha lamentato il fatto che lui nullo non aveva fatto. Ebbene, avevano preso la muscola lì per lì, hanno visto che non era nullo e ha vinto, non mi ricordo se l'oro o l'argento. Ora, senza per questo vedere se per caso era legale, non legale, vederlo, non vederlo, ma era solo per giustizia. era solo per giustizia. E non vedo tanta giustizia però nello sport professionistico andare oltre e sopra le regole, cioè se vogliamo qualche cosa come la moviola, come l'occhio di falco, come quello che volete voi, deve essere previsto, regolamentato e uguale per tutti, perché ripeto, solo in Italia, l'ho detto un miliardo di volte, ma purtroppo mi trovo sempre qui, solo in Italia avvertiamo questa urgenza bestiale della certezza del diritto in uno sport che è per definizione incerto ed imperfetto ed impreciso come il calcio. Certamente non sarebbe ammissibile dire ma per ragioni di giustizia andiamo a dare un'occhiata alla televisione. No, questo deve essere previsto, regolamentato ed uguale per tutti e in tutti i campionati. Cioè non può neanche l'Italia dire va bene, adesso a noi gira così, noi ci arrabbiamo, facciamo casino, certe volte ci meniamo e allora bisogna usare la moviola, noi lo facciamo, gli altri si arrangiano, perché non è così che ovviamente può funzionare. Dicono voci di corridoio che potrebbe arrivare Pardo, non lo so, dopo il GR lo scopriamo. 800 24 00 24 è il numero verde. Un'associazione come la nostra, che si basa sul volontariato di tanta gente, di 3.800 dirigenti fra nazionali, periferici e quant'altro, che non ce la fanno più, che sono alla canna del gas, che non sanno come andare avanti per pagare le bollette, la SIP, l'ENEL, il gas. Ci sentiamo. Salutami Marco. Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai? Una telefonata allunga la vita. Si ricomincia. Tutti convocati. De Roma nostra siamo gli Moretti, siamo romani in più tre steverini. Per te siamo i più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini. Ma tu non li fai i selfie? Li fai mai i selfie? No. Ma no. Perché non le è piaciuto il selfie di Totti, Presidente? Perché non c'entra nulla col calcio. In quel momento sicuramente dopo la partita poteva avere senso, ma durante la partita non ha senso. E tutto quanto il resto è da sé. Lo sai qual è la differenza? Che il mio capitano non l'avrebbe mai fatto. Siamo romani. Senta, come risponde all'Odito che ha criticato il selfie di Totti? No, beh, ha risposto Pallotta, a me piaceva molto tutti i Pallotta. No, la Roma sicuramente non lo vince a Catania. Ma come no, scusi, come sicuramente non lo vince? Ma non lo vince perché sta in partita obiettivamente adesso. Ma tutti stanno in partita. No, insomma, la Roma più degli altri, la Juve no. Ancora di più attualmente, ma sì. Insomma, quello è no. Roma bella, Roma mia. La Lazio sono esperti di scommesse, noi non ce ne intendiamo. Tanti noi io posso San Pietro, se vorrebbero comprare. Ma invece il fatto che l'Odito ha scommesso la sua presidenza della Lazio su una cosa. C'è il rischio che se si gioca la presidenza anche i tifosi della Lazio definono per noi. Noi siamo bagnatori del spazio. Allora, le voci di corridoio erano corrette, Pierluigi Pardo è qui con me. Come va? Se ne sentiva veramente l'esigenza del derby del giorno dopo. Sì. Come è andata ieri sera la tiki-taka? Bene, ascolti bene, puntata divertente, molto, molto bar. Ecco, mi spiace, forse bisognava sottolineare di più la prestazione di Napoli, nel senso che comunque abbiamo parlato molto di derby dal punto di vista tecnico, abbiamo parlato molto di moviole da una parte e dall'altra. Sì, c'era Liguori contro Cruciani, Mughini contro Auriemma, vabbè, insomma, però ecco, forse sì, non si è sottolineato fino al punto giusto, insomma, quello che si è visto a Napoli dal punto di vista tecnico, secondo me è molto importante. Importante per il futuro del campionato. Comunque la Juve in una fase in cui sembrava in calo ha tirato fuori una partita invece molto tosta, insomma, certo. E questo è un dato. E poi c'era Gattuso che ci ha fatto veramente sognare, perché insomma ci ha parlato di un po' di cose recenti e meno recenti, e poi insomma ci siamo divertiti, devo dire. C'era Mauri, ecco, il capitano della Lazio, che devo dire è stato molto molto netto sul discorso del selfie, cioè lui non se lo sarebbe mai fatto, quindi da questo punto di vista ha ragione Lotito. È stato anche molto rispettoso nei confronti di Totti, però. Detto il tweet di Pallotta, è un peccato come Lotito commenti Totti, è stato un gran momento, ma avrei quasi preferito un suo selfie con la sua faccia sul gol. Cosa ha detto Paolo Liguori? Ah, però, ecco, Paolo Liguori, presente, buongiorno. Presente sul buongiorno. No, stavamo commentando il derby del giorno dopo, non so se a te è piaciuto oppure no. Ma a me è piaciuto, però ormai sono due giorni dopo, ormai è diventato roba vintage. Rancida. Vintage. Il derby, questo ormai lo commentiamo come altri 50. Invece il selfie di Totti no, si può commentare perché quella è una prima assoluta, no? Cioè una cosa, un inedito, ora faranno chissà delle polemiche, le cose, ma la cosa più bella è la reazione che ho avuto io dopo la scommessa di Lotito, perché mi hanno telefonato ma un numero infinito di amici laziali, perché che dicono è a Roma, forza Roma, forza Roma, speriamo che la Roma vinci lo scudetto, tanto trangugiamo questa cosa e in effetti ci liberiamo di Lotito. Crociani non era fra questi, io però gli ho risposto: guardate, Lotito è un sola, in realtà fa la scommessa, ma se dovesse perdere mica si dimette. Ah, lui è un sola un po'. Sì, no, comunque è la prima cosa che è venuta in mente anche a me, non so a te Pierluigi. Sì, ma non a me, ma non a me, ai laziali, non a me. Anche a me è venuta in mente questa cosa qui, sappiamo qual è la corrente dei laziali contro Lotito. L'ho detta ieri sera da Pierluigi e lui mi è testimone, è scoppiato a ridere anche capitano della Lazio. No. Mauri, devo dire, è stato molto al gioco ieri, insomma, ha sottolineato la diversità, lui dice di stile rispetto a Totti, però neanche di conosciuto le grandissime doti. Io penso, io non lo so, sarà che sono laico nella vita e quindi mi faccio fatica a prendere una posizione piuttosto che un'altra. In questo sarò democristiano. A me il selfie di Totti mi è piaciuto, nel senso che secondo me rappresenta lo spirito di Francesco Totti sotto la curva sud a 38 anni dopo la carriera che ha fatto. Posso capire benissimo che Lotito la pensi in maniera diversa o che Mauri questa cosa non l'avrebbe fatta. Guarda, cioè non c'è il giusto e lo sbagliato, secondo me. No, c'è il carattere delle persone. Però sei un po' paraculo. Però guarda, Pierluigi, ti devo dire una cosa. Oggi il Messaggero pubblica la foto del gol di Totti e vicino quella famosa figurina Panini di Parola, no? Ora Parola si alza molto di più di Totti da terra, però per staccarsi da terra in quel modo un giocatore di 38 anni deve fare una vita eccezionale, deve fare una vita che io e te non abbiamo mai fatto. Io no, e si vede anche non abbastanza chiaro. In realtà Liguori forse l'ha fatta, e Liguori ha un'età impronosticabile. Possiamo dire quanti anni hai? Sì, lo possiamo dire. Non mi ricordo, però sono 66 anni. Ecco, ne dimostra 12 di meno, diciamo la verità, sembra mio fratello. Ecco. Capito, però il fatto è questo, che in realtà Totti non è paragonabile non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto, quando si dice di stile, come dice Lotito, non è paragonabile non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della vita da atleta a nessun giocatore italiano. Non ne conosco pochissimi che si sono allenati così, anche stranieri, qualche straniero c'è in effetti, ma in Italia quando raggiungi il successo poi fai come ti pare, non ti alleni, quello è uno che sta attento a quello che mangia, a quello che beve durante le feste, sta attento a quanto dorme, si allena a parte, sì. E non è che tutti sono disponibili. Questo dal punto di vista tecnico hai fatto benissimo a sottolinearlo, dal punto di vista comportamentale il dibattito è aperto, cioè io credo che l'ho scritto oggi sul Foglio, Totti si è messo di fronte a un rischio enorme. Tu pensa se la Lazio avesse vinto la partita, già ci sono state ovviamente i tweet, le foto, le simulazioni con tu alzi il telefono per un pareggio, noi alziamo la coppa in faccia, cose di questo tipo, no? E poteva succedere, e può anche sembrare ad alcuni un limite, no? Nel senso che comunque abbiamo visto la ferocia della Juve l'altra sera. Ecco, tu da tifoso della Roma non pensi che lì ha perso 30 secondi per vincere la partita il capitano per fare quella foto? L'ha sottolineato Paolo anche ieri, 30 secondi perché poteva utilizzarli per vincere la partita, sì, però sai, cioè che è una distrazione per una partita, non è che stai 5-0. No, per i tifosi quel gol lì è stata la vittoria della partita, ma ieri l'ha spiegato meglio di me, molto meglio di me Cruciani, dal punto di vista opposto. Subire il 2-2 in quel modo da Totti per i tifosi avversari è la sconfitta, anche se hanno pareggiato. Ma l'ha spiegato così bene Giuseppe, che è stato onesto, chi è nato a Roma non può che dargli ragione, fosse successo. Però addirittura c'è un campionato da andare a vincere. Ieri qualcuno ha sottolineato quella famosa partita di Fiorentina, Juventus, gol di Del Piero con Vialli che segna il 2-2, corre con la Comunione. Non stiamo al 90esimo, se perso poi tempo anche dopo. ci sono state altre sostituzioni, addirittura Garcia. Però Paolo, un po' secondo me è vero. Panchina, un po' secondo me è vero. Cioè io credo questo, che Roma e i tifosi della Roma un po' bastino a se stessi, nel senso che comunque il livello di amore, di felicità, di identità che esiste è talmente forte che certe volte distrae dall'obiettivo. L'obiettivo, cioè la fredda cronaca dell'altro giorno è che la Roma ha preso due punti, la Juve ha preso due punti sulla Roma. No, ma dall'obiettivo purtroppo dall'obiettivo purtroppo siamo distratti dal fatto, non tanto da questo amore che comunque a me basta, hai ragione te, però dall'obiettivo purtroppo siamo distratti dal fatto che quando la Juve sembra in crisi il gol in fuorigioco lo piglia sempre senza eccezione alcuna, come la convocazione dei parlamentari. Quindi siccome questo chi vede il calcio come me da più di 50 anni, 55 anni, lo vede sempre. Però Paolo, scusa, posso dirti una cosa? Ti chiedo... Ma non è una cosa da romanista. No, ma il fuorigioco c'era. Questo te lo dicono i tifosi del Napoli, sì. I tifosi dell'Inter, i tifosi del Milan, tutte squadre che non lo prendono sempre il gol in fuorigioco quando serve. La Juve lo prende sempre. Cioè, secondo te questo campionato è falsato? Secondo me no. Secondo me questo campionato ad oggi non è falsato. Ci sono stati degli episodi da una parte e dall'altra. Stai attento, Pier. Tu vedi un disegno? Non è falsato da nessun disegno, punto. La Juve è più forte, punto. Non è falsato comunque dal gol di Napoli, punto. La classifica è disturbata dalla partita di Torino, ancora quella che Garcia, siccome è francese e non è un ipocrita italiano che deve per forza dare un po' ragione a tutti, è francese, gli è rimasto impresso quella partita, gli è rimasto impresso il trattamento a Torino, lo dice sempre, e vedo che i commentatori italiani dicono ancora di quello parli. Ma Garcia ne parla perché è un'esperienza sua di vita che prima di venire in Italia non aveva mai fatto. Ecco, questo è il punto. Allora io lo starei a sentire, perché quel signore lì che è francese, come dire, è un osservatore esterno. No, certo, poi se si unisce anche quell'altro signore lì che è spagnolo, che dice. Sì, però che dice io dico una cosa: io non credo che alla Roma faccia comodo ragionare così. Io penso che il campionato sia apertissimo. Non vedo ad oggi un disegno. Perché se no, Paolo, scusami, se no il rigore con Sassuolo non te lo danno. Cioè, se è tutto scritto. Ti do ragione. Quello che non si può fare è andare la sera in Camporella e la mattina dopo esibire la verginità. Questo fa la Juve tutte le volte, grazie. Al fatto, allora vai in Camporella, il campionato è aperto, la Juve è più forte, va benissimo tutto quello che dici te, però il campionato è aperto perché la Roma è a tre punti sono una partita, quella partita. Intanto il campionato, direttore, è aperto, ma saranno chiuse le curve di Roma e Lazio, curva sud e curva nord, chiuse per un turno contro Empoli e Napoli rispettivamente, per i giallorossi misura prevista anche per la Coppa Italia, è possibile entrare solo con la tessera del tifoso, questo causa violenza dopo derby. È venuti fuori, no? Come? Per ciò che è avvenuto fuori, sì. O per ciò che è successo allo stadio, no, ciò che è avvenuto fuori, vabbè, quello che è avvenuto fuori, sai, poi alla fine è la stessa cosa che prendersela con i musulmani perché lo Stato islamico. No, la cosa molto triste ovviamente è che ci rimettono degli innocenti, nel senso che non è che tutti quelli che sono nella curva nord della Lazio, nella curva sud della Roma hanno fatto i tafferugli l'altro giorno, questo è evidente. Ma la stragrande maggioranza di quelle persone avrebbe condannato, e magari c'è qualcuno che avrà anche preso paura trovandosi in mezzo a quei casini. Comunque io dissento dalle parole di Nicchi di ieri, le dichiarazioni della Laurenti istigano la violenza, io continuo a pensarla da vergine, cioè nel senso che non c'è nessun tweet, nessuna parola, nessuna dichiarazione che possa giustificare un ceffone dato da una persona. Assolutamente. Quindi non condivido. Questo assolutamente, e credo che proprio in questi giorni nei quali si è parlato molto di libertà, di che cos'è l'Occidente, con tutti i limiti che abbiamo, con tutte le sfighe che abbiamo, la crisi economica, i problemi, però ecco, l'Occidente è un luogo dove se uno dice una cosa lo quereli. Se uno dice una cosa, tu dici una cosa contraria, è contraddittorio. Guarda che Cruciani cosa fa? Cioè, è arrivato il signor Cruciani che ci fa le corna al signor Liguori. Cruciani annuisce, no, non annuisce. A me non mi vede. Vieni Cruciani, vieni. Spettro microfono, brutto episodio, atto di censura. Eccolo qua. Signor Cruciani, fra l'altro, è vestito come il libanese di Romanzo Criminale, con la giacca, come il dandy, come il dandy, c'è il signor Liguori. Paolo, che fai ancora a parlare di pallone? No, non sto parlando di pallone, sto parlando qua con gli amici, della radio. Che no? Fanno finta di parlare di politica, cose serie, basta. Parlavamo di Francia, parlavamo di tolleranza. Parlavamo di parole che infiammano, parlavamo del fatto che... Cioè De Laurentiis con le sue parole infiamma, come dice Nicchi. In nessun caso, se uno dà uno schiaffo, in nessun caso può dire che è stato aizzato da qualcuno. Chi lo dà se ne assume la responsabilità. Questo ma purtroppo dicevano. Il problema è che a Napoli si infiammano per poco, perché ieri io non ho detto per esempio nulla di forte su Napoli, che pure è legittimo senza per questo essere minacciato di morte o di cose peggiori. Mi sono arrivati non so quanti messaggi semplicemente perché ho messo in dubbio poesia, fra l'altro, alcuni molto lunghi che finivano con delle minacce pazzesche, che al confronto ISIS e i terroristi islamici sono degli agnellini. No, non fare così, io ti ascolto tutte le sere, quelli messaggi di insulti da Napoli ti arrivano di più per quello che succede alla Zanzara che per quello che hai detto ieri sera e che ti dicono sei contro Napoli, anche ieri sera Paolo abbiamo fatto il pieno, cioè vabbè, ragazzi, i erano arrabbiati, i napoletani erano tutti arrabbiati, che vuol dire evidentemente il programma dallo bene. Vi abbraccio, ciao. Detto questo, secondo me rimane un dato tecnico, al di là del selfie di Totti, al di là del fuorigioco, a me non sembra, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, non sembra ad oggi un campionato falsato. Mi sembra ci siano due grandi squadre, molto se lo giocano adesso, secondo me. Cioè adesso Sabatini, secondo me, sul mercato deve fare qualcosa, perché comunque questa squadra senza Gervinho e Keita fino a metà febbraio, con i problemi che ha avuto, anche con le sfighe che ha avuto, perché poi non dimentichiamoci di Castan, dall'altra parte c'è Barzagli, per carità, però insomma Castan e Barzagli sono due giocatori che sono stati completamente persi, parla solo di destro in uscita, anche se è stato smentito. A proposito di mercato, proprio credo nella vostra trasmissione ho sentito, o se no da un'altra parte, ho sentito una cosa che condivido in pieno. Io sono contro il mercato di gennaio. Badate bene che tutti i giocatori che vengono citati, nominati, anche indirettamente, anche di straforo, sono poi disturbati da questo mercato. Io sono contro questo mercato di gennaio, col clima che c'è in Italia, per come avviene sui mezzi di comunicazione, è una turbativa pazzesca per le squadre. Però c'è ovunque, a meno che non si faccia quella cosa di cui si parlava con Abodi, il presidente della Lega di Serie B, che secondo me può essere un'ottima idea, che si decide di fare come in Inghilterra, o meglio come in Germania, cioè si gioca spesso a ridosso delle feste natalizie. Sarebbe secondo me bellissimo riportare le famiglie negli stadi, perché comunque sono giorni di festa, sono giorni nei quali ci sono le tredicesime, si spendono dei soldi, le famiglie sono riunite, per cui lascia perdere il 25 e il 26, perché questo è un paese ovviamente cattolico, ma insomma se c'è una domenica 28 dicembre si può giocare, secondo me, e poi fermarsi a gennaio per una ventina di giorni e consentire a quel punto anche, diciamo, meno contaminazione fra il mercato e il campionato. Perché tu hai visto domenica, è bastato che per 15 giorni si parlasse di Nainggolan, del suo rinnovo, del fatto che di quanto costerà e quanto vorrà il Cagliari, che ci sono altre squadre dietro il Cagliari, che rischia comunque di restare alla Roma, e per la prima volta, la seconda anzi, prima a Udine e anche a che non ha giocato, e nel derby per la prima volta l'ho visto sbagliare 2-3 può essere anche valori. un caso, comunque, anche comunque sicuramente è una turbativa. Quadrato da quando se ne è parlato sul mercato come di un fenomeno, è rimasto alla Fiorentina, non è stato venduto, è ricomparso domenica dopo 6 mesi, insomma era quasi un desaparecido del campionato, uno dei più forti giocatori che c'era l'anno scorso. Nainggolan può essere anche in un calo fisiologico dopo che si è spolmonato fino a quello secondo me non ce l'ha proprio il calo fisiologico, nemmeno quando dorme. Ciao direttore, grazie. Ciao. Non arretra di un millimetro il signor Liguori. Non arretrerà mai. Antonio, provincia di Massa Carrara? Sì. Vai. Tonio. La roba del genere mi ha fatto veramente girare le palle, infatti stavo per mandare a fanculo. Tonio. Sì. Mitico, sì. Grandissimo, sei in diretta, abbiamo sentito tutto, ma ti vogliamo bene ugualmente, dici tutto. Stai per mandare a fare in culo noi? No, non voi, è una nota a casa automobilistica. Che cosa ha fatto? Cosa è successo? Con il simbolo della stella, ma... Non si può dire. È anche la mia macchina, quindi... Può capitare. Io volevo soltanto dire una cosa, che non me ne vogliano gli amici tifosi della Roma, che mi ispira simpatia, io sono interista comunque, tanto per stabilire le cose, però io non so se una squadra il cui leader meraviglioso che segna nel derby a Raffica e tutto quello che vogliamo è gratificato nel farsi un selfie perché ha pareggiato un derby, che voleva dire automaticamente distanziarsi ulteriormente dalla Juve. Ecco, non lo sapeva, poteva vincere, sì. Poteva anche perderla, attenzione, poteva vincere, poteva anche perderla. ma non è, non c'è la cattiveria, non io vedo la d'accordo. Cattiveria. Io temo che la Roma sia una squadra che si appaghi di questo ruolo che ha adesso da alcuni anni in Italia, cioè la seconda squadra più forte dell'Italia, tutto qua. Ecco. Io sono abbastanza d'accordo, nel senso che conosco Roma, conosco il culto quasi religioso che esiste di Francesco Totti, che è un culto assolutamente meritato, perché Francesco Totti è un giocatore immenso, proprio leggendario. Però credo che ci sia del vero in questa frase, nel senso che comunque insomma io non so se il capitano della Juve, io non so se il capitano della Juve, magari la Juve con Conte su una situazione del genere, se si fosse fatta una foto, Conte come avrebbe reagito. Quante volte abbiamo detto Allegri? Che il derby di Roma è una iattura per la romana, sì, di turno, che vuole vincere lo scudetto, perché è troppo pesante, troppo importante, troppo condizionante, perché forse è un segno di provincialismo. Ieri è stato giustamente sottolineato, poi Liguori non è d'accordo, che l'episodio di quella famosa Juventus-Fiorentina e del meraviglioso gol di Del Piero, in cui Juventus in rimonta dal 0-2 al 2-2, Vialli che prende la palla come una furia e va a centrocampo, poi vince la partita. Questo è vero. Lo so, per dirti l'esempio. Poi, per carità, Pirlo poteva non segnare il gol a due secondi dalla fine, no? Ma l'esempio io quest'anno più evidente ce l'ho avuto nel derby contro il Toro, che non è stata una partita brillante della Juve, ma è stata una partita nella quale la Juve a un certo punto rimane in 10 contro 11 e, pur rimanendo 10 contro 11, continua a provare a vincere questa partita. Io sono d'accordo, l'ascoltatore sono d'accordo, ripeto, non toglie nulla alla, anzi aggiunge dimensione letteraria, secondo me aggiunge materiale per scrivere libri, editoriali e comunque per il calcio come piacere della vita. Quindi a me il gesto istintivamente mi è piaciuto, il gesto di Totti, non mi nascondo, però credo che alla lunga, soprattutto dopo la prestazione tosta, intensa, positiva che ha fatto la Juve a Napoli, insomma, poi fai due somme e questo ragionamento ci stia. Sì, allora Pier, voglio farti sentire, prima l'ha citato anche Liguori, questa idea di mettere magari quel gol di Totti sui pacchetti delle figurine che tu ieri stavi scartabellando. Ebbene, sì, ieri ho attaccato Farnerud, perché era le sei figurine omaggio. Farnerud, c'era Aquilani. Invitiamo il signor Allegra, amministratore legato da Panini, a mandarci un po' di figurine. Vabbè, adesso così è brutto. Siamo in. Ma mica se fa così, mandaci le figurine, Allegra. Mandaci le figurine. Vai e te le compri. Intanto l'abbiamo intervistato. Ma che è? Non è radio di Confindustria, radio delle con figurine. L'abbiamo intervistato per sapere se davvero quella girata di Totti potrebbe finire su quello storico. Le vendono solo a Roma, a quel punto, a metà di Roma. Direttore Allegra, grazie per aver risposto alla nostra convocazione. Il gesto tecnico di Totti nel 2-2 di domenica nel derby finirà nelle vostre figurine, giusto? Esattamente, di fatto è un gesto così spettacolare, a parte che è importante tecnicamente, che merita diventa una figurina, e quindi la inseriremo quasi sicuramente. Dico quasi sicuramente perché stiamo ancora aspettando la fine del giro d'andata, però riteniamo che sarà il gol più bello del giro d'andata e quindi diventerà una figurina tra le figurine speciali della sezione film del campionato. Sono figurine dedicate appunto ai protagonisti e ai momenti del giro d'andata, e il gol del giro d'andata sarà la figurina di Francesco Totti. Il gol di Totti ha ricordato quello di Carlo Parola, diventato il vostro simbolo, no? La famosa rovesciata della Panini. C'è il rischio che Totti prenda il posto di Parola? Allora, diciamo sì che in realtà il calciatore in rovesciata è un disegno realizzato dagli artisti Panini negli anni 60, che si è effettivamente ispirato al gesto di Parola, però è un disegno originale. Al momento direi di no, nel senso che è un simbolo che appunto ha più di 50 anni e in qualche maniera ce lo teniamo stretto. È vero che il gesto di Totti è per certi versi ancora più bello tecnicamente, perché probabilmente non tutti sanno che quella rovesciata di Parola, che era bellissima a livello spettacolare, era in realtà una rovesciata difensiva a staffare l'area. Invece il gesto di Totti è terminato in un gol importante, in un derby, quindi dal punto di vista tecnico devo dire forse ha ancora più valore. Ragazzi, damosene una svegliata. Tutti convocati. Non hai fatto il selfie dopo il gol ieri. Però eri sotto la sud, veniva a distanza. No, veniva. No, ha segnato. Sarebbe venuto male. Ha segnato. sarebbe venuto male, sarebbe, 90 metri, cioè, a nord, insomma. Anche se devo dire che Totti non è che ha fatto sto, perché l'ha fatto dall'alto verso il basso, quindi si vede mezza pista l'atletica, doveva mettere, sì, il telefonino dal basso verso l'alto. Ha bisogno di qualche lezione, no? Di... Michelangelo Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, niente, volevo intervenire per quanto riguarda la questione del diritto di informazione, diritto di critica, libertà di informazione e l'attacco mediatico alla Juventus. Sì. Io credo che tutti i giornalisti professionisti sono, bene o male, sono pagati e ovviamente devono attenersi a una linea editoriale. Evidentemente la linea editoriale di molti giornali è quella di creare una sorta di condizionamento psicologico sugli arbitri, ovvero creare questo accerchiamento contro la Juventus per far passare il messaggio che nel dubbio bisogna andare contro la Juventus, oppure se si deve commettere un errore è meglio commettere l'errore contro la Juventus, perché le polemiche saranno il giorno dopo sicuramente inferiori. E poi volevo anche sottolineare come l'Italia sia una nazione dove il merito non paga. E infatti quando c'è una persona che emerge dal gruppo, i mediocri tendono a fare coalizione e a isolare il merito. Di chi stiamo parlando? Sì, della Juventus, ovviamente, che in questo momento è la migliore squadra italiana. Michelangelo, io ho fatto mezz'ora di trasmissione l'altro giorno su Udinese Roma, con Cesari che si è presentato con la squadretta e con la cosa che ha ancora dei dubbi sul fatto che fosse gol quello e sul calcio di rigore non dato all'Udinese, con Pozzo che dopo la partita aveva detto che Garcia, aspetta, come aveva detto, stava cominciando a schiamazzare. E poi ho fatto mezz'ora di trasmissione ieri e ti ripeto, mi spiace perché sicuramente la prestazione della Juve a Napoli meritava una sottolineatura più tecnica che noi volevamo dare, ma si è andati subito a parlare di quello, quindi di questo mi dispiace. Detto questo, non mi sembra che ci siano due pesi e due misure, mi sembra che ci sia una cosa molto italiana, discutibile per carità, ma pure voi chiamate 9 su 10 chiamano per parlare di questo, cioè io, sì, vi invito a riflettere su questa cosa qui, per parlare dei 30 centimetri, dei 10 centimetri, ribadisco la mia opinione, per me, sottolineare detto come ieri, noi ne parliamo, sì, capito, che dobbiamo fare, cioè, ce lo chiedete, se ci chiama uno che ci viene a parlare di Wayne, sì, Rooney, che è il mio calciatore preferito, o di Tony Adams, che è il mio eroe, siamo 20 minuti, facciamo 20 minuti su Tony Adams, che è il mio eroe, sì, ecco. Però invece non succede questo, non succede questo, anche perché ci sono dei dirigenti che hanno comunque la tendenza a izzare, perché insomma quando De Laurentiis fa un tweet come quello dell'altro giorno, sicuramente fa un tweet che porta al dibattito, a quel punto è impossibile non parlarne, altrimenti non fa il giornalista. Poi ci sono le opinioni, la mia opinione ieri l'ho espressa, credo sia molto simile a quella di Carlo, e cioè che io non vedo in questo campionato, siccome ogni settimana c'è un episodio arbitrale, ma una volta la Juve, una volta la Roma, una volta la Juve, una volta la Roma, io ad oggi non vedo un disegno, non vedo un disegno, non vedo un campionato condizionato dagli arbitri. Però non è neanche vero, secondo me, che la Juve è accerchiata. La Juve quest'anno ha scelto una strategia di comunicazione, se vogliamo anche nobile, nel senso ha scelto di non parlare, per esempio dopo Juve-Inter, noi abbiamo fatto della moviola di Juve-Inter, la Juve ha deciso di non parlare degli episodi arbitrali che erano stati in larga parte sfavorevoli alla Juve, la mancata espulsione di Juan Jesus su Chiellini, anche il dubbio Morata ammonito per simulazione, c'era anche un episodio a favore dell'Inter, questo va detto per onore di cronaca, e quindi sicuramente di non parlarne, quindi ha preso questa linea qui. Però insomma, non parlarne da parte dei mezzi di comunicazione è impossibile. Se tu hai un presidente come Pozzo che dice le cose che ha detto dopo Udinese Roma, o un presidente come De Laurentiis che twitta le cose che ha twittato dopo Napoli Juve, come fai? Non li fai sentire. Di che ti occupi? Di giardinaggio? No, dicelo voi, io sono aperto ad altre soluzioni, veramente. Perché c'è questa sindrome d'accerchiamento, questa maniera di persecuzione dei tifosi juventini? Che io capisco, cioè il fastidio. No, ma guarda, di che 5 giorni scusate, dei ladri, posso dire una cosa? 5 giorni. Fa. Fastidio, no, Carlo, cioè 5 giorni fa c'era la sindrome d'accerchiamento dei tifosi della Roma, cioè io ho un po' il polso. 5 giorni fa c'erano quelli della Roma e ti dicevano: hai fatto mezz'ora di trasmissione per Udinese Roma per gli episodi arbitrali, la palla è dentro di mezzo metro, cioè è una cosa italiana, è una cosa italiana. Il problema è se in un programma televisivo o radiofonico si censurano le telefonate. Ecco, se voi doveste sentire per caso 10 telefonate, tutti i tifosi della stessa squadra che dicono tutti la stessa cosa, dice: ma forse qua c'è qualcuno che fa un filtro. Siccome invece le voci, anche i messaggi che ci arrivano, questo dice date voce soltanto ai gobbi, dice anche un'altra cosa che non dico, i tifosi juventini parlano come parlavano a Scandalo Moggi, ma 5 minuti fa Liguori, ma va, quindi ci sono posizioni diverse, e molto del gioco che voi vedete, delle dichiarazioni, delle polemiche o del non fare polemiche, sono la stessa sono delle parti in commedia di protagonisti di altissimo livello che giocano anche con la comunicazione, e questa è la verità. Garcia, quando per 2 mesi è andato avanti a dire quella cosa, l'abbiamo detto 1000 volte, a giocare a fare il Mourinho, l'ha fatto perché dal suo punto di vista gli conveniva. Giusto o sbagliato che sia, come lo faceva Mourinho. Quando Allegri invece sceglie una strategia di tipo diverso, lo fa perché evidentemente pensa che quello possa essere utile alla sua squadra. È una questione di, per l'appunto, di convenienza. Cioè, ma il gioco è fin troppo evidente: metti pressione su chi dirigerà la tua partita, su chi dirigerà la partita degli avversari, sull'opinione pubblica stessa. E insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Diventa complicato. Per me rimane la realtà di un campionato con due grandissime squadre. Secondo me, la Juve l'altra sera ha dato una grande dimostrazione, perché la Juve è scesa in campo senza tifosi propri, non va dimenticato, 60.000 tifosi del Napoli, con tutta una serie di voci che la davano in calo, in flessione, contro un Napoli invece in grande crescita, e ha fatto una grande partita, almeno dal punto di vista dell'intensità, di altissimo livello, e questo è un dato di fatto. Era arrivata con la pressione dell'aggancio della Roma, e secondo me se l'è cavata alla grande, e adesso, come dicevo ieri, ha due partite contro Verona e Chievo, con la Roma che gioca con Palermo e Fiorentina, dove può scavare. Però se la Roma invece fa 6 punti fra Palermo e Fiorentina, ne riparliamo, perché poi c'è Roma-Empoli, cioè sarà tutto un gioco che potrebbe portarci fino a maggio-giugno. Ma aspettiamoci purtroppo altre polemiche. Noi sentiamo se Giorgio da Pesaro Urbino ci vuole parlare del basket Pesaro. Giorgio ci ha chiamato per questo sicuramente, vero? Sicuramente per la Scavolini Pesaro. Per la Scavolini. Stavo ascoltando. Sta andando benissimo. No, no, di che ci volevi parlare? Mi spiace, no Scavolini, no. Cioè, volevo parlare proprio perché sono entrato, ho fatto la telefonata, ma che strano. No, però io ho fatto una scommessa prima che designassero gli arbitri, e ho scommesso che avrebbero designato Tagliavento. Tagliavento è lo stesso arbitro che non ha esitazione a lasciare le squadre in 9 quando gli sta comodo, e abbiamo visto all'inizio della partita, dopo 10 minuti, un fallo di Pirlo chiaramente da ammonizione, un fallo di Pogba su una ripartenza che ha preso un giocatore per una spalla che era da ammonizione, la Juventus avrebbe avuto 2 uomini su 3 centrocampo ammoniti dopo 10 minuti, invece non è successo niente. Quindi un disegno chiaro, arbitraggio premeditato, un'esecuzione. Storicamente, ma non c'è, cioè questa è la storia, non è che lo dico io, basta andare a vedere le partite di Tagliavento con la Juventus. Tagliavento con la Juventus è un arbitro che nel dubbio dà sempre ragione alla Juventus, ma anche il gol annullato sul presunto fallo a Buffon. Sono due giocatori che vanno a prendere la palla, Buffon arriva sulla palla, cade sul giocatore, la palla gli cade, nel dubbio l'arbitro fischia annullamento cioè tutti in una direzione. Poi devo dire che rispetto ad altre volte, per far vincere la Juventus stavolta ha lavorato meno Tagliavento, ha dovuto far meno fatica, però comunque la sua particina ce l'ha messa anche stavolta. Detto questo, poi ognuno la pensi come vuole, ma questi sono fatti, cioè io anche cioè, sono a livello fatti, amatoriale sono fatti, Giorgio, sono fatti che tutto sia stato deciso, pilotato, e quindi è stata una scientifica esecuzione del Napoli. Per cui il killer è stato Tagliavento. I giocatori della Juventus sapevano tutto perfettamente, dunque potevano entrare in campo, Pirlo poteva menare questo, Pogba poteva menare quell'altro, erano certi che sarebbe andata così, ed erano certi anche che su un calcio di punizione dalla destra Cáceres avrebbe potuto segnare fuori gioco. Questo è il quadro del discorso. Andrea Reggio Emilia, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno Carlo. Oh, ciao, parliamo della Griffin Bonn, eh? Ci ha chiamato per parlare del basket Reggio Emilia, la Griffin Bonn? No, veramente. No, veramente no. Strano. Mi piace perché abbiamo proprio sbagliato argomento oggi. Vedi? Ho smesso di seguire e giocare a basket da tanti anni. Quindi, no, chiamavo per questo, mi collego a quanto detto adesso dall'ascoltatore, di cui non ricordo il nome, è quello che ha detto quel ragazzo da Bari, Michelangelo. Per dire quella che è la mia idea, io ho l'impressione che la Juventus, la società, sia molto brava a fare lobby. Mi spiego. Prendiamo Sky, del quale io sono abbonato, e che tra un po' dirò per passare a Mediaset Premium, così Pierluigi concorro anche io a pagare il tuo lautissimo stipendio. Lautissimo, sì, lautissimo. Lautissimo. Ma tu di proprio che paghi direttamente a me, facciamo una cosa, No, senza queste inutili intermediazioni, dove chiamare le code. No, non ci conosciamo nemmeno io e Pardo, quindi no, ma chiaro, stiamo scherzando, poi non è lautissimo, guarda, sicuro. No, ma è buono, insomma, mancherebbe non altro. Mi lamento, però non i ricchi sono altri. Chiusa la parentesi, sì. Dunque? Dicevo Sky, no? Questa propensione che ha nel dare i titoli alla Juventus, a Pro Juve, questo commentare gli episodi a favore della Juve, insomma, io domenica sera ho visto una scena che mi ha fatto abbastanza arrabbiare, cioè il tentativo di arrampicarsi sugli specchi per cercare di dimostrare in qualsiasi maniera, tramite anche forse una lente fornita dalla NASA probabilmente, che il fuorigioco ci fosse o non ci fosse. Insomma, è dovuto intervenire Bobba per dire: signori, è fuorigioco. Cioè, e questo è uno dei tanti esempi. Il Napoli compra Gabbiadini. Non lo so, Andrea, io non me ne accorgo. Cioè, se è così prendo atto. No, succede che delle volte i moviolisti, questo è vero, succede delle volte che i moviolisti abbiano delle idee diverse. Però io, per dirti, io credo che siccome facciamo questo lavoro, grazie a Dio, tutte le settimane, e tutte le settimane ci becchiamo la nostra dose di insulti o di applausi dagli uni o dagli altri, quello che conta è l'onestà intellettuale. Io ho una persona che si chiama Graziano Cesari, che 5 giorni fa ha espresso dubbi, e ce l'ha ancora, sul gol della Roma, quello dell'1-0 di Astori, e ha detto che c'era rigore netto per l'Udinese, e ieri ha detto che c'era fuorigioco del Napoli facile da vedere. Allora, Graziano Cesari 5 giorni fa prendeva i soldi dalla Juve, adesso prende i soldi dalla Roma? No, Graziano Cesari è uno che giudica quello che vede, poi si può sbagliare, anche perché molte di queste situazioni sono al limite, ma giudica quello che vede. Io credo che l'onestà intellettuale, da questo punto di vista, ci sia, e poi ribadisco, in questo campionato qui, questa è una mia opinione personale, io non vedo un disegno, non vedo, perché altrimenti sto disegno cambia da una settimana all'altra. Se c'è un disegno di come si diceva la settimana fa, c'erano gli juventini che cominciavano a dire c'è un vento strano. Ma perché se uno dice una cosa che va contro la tua squadra è per forza prevenuto, ma è per forza ma stronzo. Questo non è così. Cioè, giudichi quello che giudichi vedi, quello se, che vedi. Se ti va bene, bene, se non ti va bene, ognuno ha diritto anche di tenersi. E ripeto, non c'era, secondo me, il vento a favore della Roma dopo Udine, non c'è il vento a favore del Napoli dopo la Juve. Sono due grandi squadre, semmai in assoluto, siccome poi c'è anche chi ci scrive perché si parla poco delle piccole squadre, semmai in assoluto statisticamente le grandi squadre, questo può essere un discorso da approfondire di sudditanza psicologica, mediamente le grandi squadre hanno qualche attenzione in più. C'è anche qualcuno che ha detto: ma Totti, se invece di Totti c'era Vesino dell'Empoli che si faceva il selfie, sarebbe stato ammonito. Magari sì. Roma e Juve sono le due grandi favorite del campionato, sono due grandi squadre, sono due belle squadre, viva Dio, sono due belle squadre, ed è un duello bello, divertente, del quale sarebbe figo parlare anche dal punto di vista tecnico. Magari qualche punto in più tutte e due in certe partite con squadre di seconda fascia se lo sono portate a casa, ma non vedo un disegno, perché sennò sto disegno cambia dopo Udine. No, che cos'era? Dopo Udinese Roma Juve Inter, allora c'era il vento del cupolone. Fermiamoci un attimo, adesso per il vento del nord. Quando facendo allora mi canta la pipa mia, capito come? E questi mi hanno mandato a 60, di che stiamo a parlare? Tutti convocati. Tiago Splitter. Danny Green, Patty Mills, Marco Bellinelli, who we miss on the Bulls. A me sarebbe piaciuto parlare di questo, un po' di più ampio respiro. Posso dire che è arrivato adesso addirittura il messaggio, lo ringraziamo, perché dopo una serie di insulti arriva il messaggio: basta, cambio radio, avete solo degli ascoltatori pazzi. Adesso c'è addirittura la polemica contro gli ascoltatori. Chiamaci, Dennis, chiamaci, 349, non posso dire il numero, 34961, chiamaci, no, 34... Dennis, tanto non hai cambiato radio, chiamaci e dici il tuo punto di vista e vediamo se è meno pazzo. Hai sentito, mi sarebbe piaciuto anche parlare di questo, Berinelli da Obama. Vabbè. Straordinario. Berinelli, no, bellissima l'immagine che ovviamente Berinelli metterà su CD e distribuirà all'intero mondo. Si usa ancora CD? DVD? No, si usa più. Su supporto qualunque. Sì. Cioè, Obama, presidente degli Stati Uniti, Benelli esattamente alle sue spalle con un bellissimo completo grigio con la cravatta nera, e per la visita dei San Antonio Spurs, visita pontificia al presidente degli Stati Uniti, cita tutti i giocatori quando arriva Berinelli. Berinelli che ai miei Chicago Bulls manca parecchio, e lui abbassa un attimo gli occhi a terra, gli scappa un sorriso. C'è un vecchio proverbio padano che ci manda Guido: chi urla di più porta a casa la mucca. Io credo che veramente su queste parole Guido sei un grande, ci può stare. No, chi urla di più porta a casa la mucca è straordinario, ma in certi dibattiti televisivi anche a Tiki Taka certe volte urlare di più ti porta più vicino porta a casa la mucca. Potresti distribuire la potremmo dare il premio della mucca della chi ha urlato di della più. Mucca pazza. Ieri credo che Cruciani e Auriemma sarebbero stati in pole position. Cioè, se sì, Mughini si è messo in un atteggiamento ascetico. Poi aveva Clemente Russo lì vicino, pugile napoletano, forse che gli ha dupisse. Sì, volevano bene. Anche Liguori, devo dire che insomma. Mezza mucca, un terzo di mucca lo diamo pure lì. Francesco Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Perché non parlate del gesto tecnico di Totti anziché restare sul solito argomento palloso? Ormai sono due giorni che ne parlate. Ma anche del gesto tecnico di Totti si è parlato pure di quello. Che dobbiamo fare? Posso dire una cosa impopolare? Io ho visto gol di Totti più belli. Credo che il gol di Totti l'altro giorno sia chiaramente storico perché arriva nel derby. Capito. Però per dirti, c'è un gol di Totti. Ieri abbiamo fatto la clip con gli 11 gol di Totti al derby. Cioè il gol, credo, nel derby vinto 5-1, quello col pallonetto a 30 metri secondo me è superiore, insomma è chiaro che a 38 anni un gol così in una partita importante, doppietta, ci sta. Sì, molto, ma anche, potremmo parlare anche dei gol di Pogba, che quando vede il Napoli fa tre gol in sei partite, uno più bello dell'altro. Quanto ci mette arrivare al pallone d'oro? Dipende molto da quegli altri due, perché anche da dove Pogba, Pogba è un giocatore che fa impazzire, è una roba monumentale, però insomma è chiaro che Cristiano Ronaldo e Messi sono due attaccanti, e soprattutto con il pallone d'oro in questa sua nuova forma, in questo suo nuovo format, casa di Blatter, alla fine è sempre un ballottaggio fra quei due. Se quei due calano fra 2-3 anni, Pogba. Tanto ti faccio sentire tre vocine, posso? Vai. No, perché insomma sul mercato c'è Simeone che dice che Mario Suarez resta, non va via. C'è Diamanti, che tu ti ricordavi che ha giocato una Fiorentina, Diamanti? All'inizio, quando la Fiorentina in Serie C, ho giocato tre partite, questa non la sapevo. E poi c'è il solito Mino Raiola che mette paura ai tifosi della Lazio. Noi, Mario, per noi è un giocatore importante, gioca abbastanza seguido, ¿no? Con Thiago, lui, per noi sono due centrali del centrocampo che non abbiamo intenzione di farli partire. Io ho finito il 15 novembre, sono tornato dalla Cina per rimanere in Cina, poi chiaramente sono stato qua in Italia. Ho saputo di questa, che ci poteva essere un interesse di tante squadre, ma anche della Fiorentina, quindi ho dato il mio ben volere perché penso che questa sia una sfida importante per me, e a me la mia carriera è stata un po' strana, no? Però le sfide mi sono sempre piaciute, e secondo me questa è un'altra di quelle sfide che mi si mette davanti che mi è piaciuta molto. Ma io credo che Philip Anderson è esattamente uno di questi giovani che per tante altre ragioni è uscito fuori, che è arrivato già l'anno scorso e diciamo che non ne parlavano tanto bene come oggi, e sono contento che adesso ne esce fuori. Io credo che sia un giocatore di grandissima qualità, che porta qualcosa in più alla squadra, che può influire anche su un risultato finale, che alla fine questo è conto. Quindi credo che sia molto difficile per la Lazio detenerlo. E questo era Mino Raiola, te lo leggo anche in dialetto. Chi vusa più se la vaca l'è sua. Questo in dialetto. Sono scritto in vari, eh? Basta gol no gol, pardo meglio mangiarsi un frigo, ci scrive Massimiliano da Udine. Grande rispetto per il frigo. Siamo in chiusura, abbiamo 40 secondi giusto per chiederti se sarebbe un colpo più grande destro la Fiorentina o Jovetic alla Juventus. Destro secondo me è un giocatore in questo momento con più, alla Juve serve la ciliegina, la torta già c'è. Jovetic, quindi può essere. Può essere. Cercava Sneijder, cioè cerca un giocatore che gli dia una qualità internazionale anche diversa. E al di là del discorso della Champions, che si può giocare o non giocare, però insomma che gli dia una dimensione ulteriore. Sì. Destro serve maledettamente al Milan, serve al Torino, alla Fiorentina, serve a tutte le squadre che devono migliorare davanti. È un acquisto più sicuro, secondo me, più semplice, con meno incognite. È chiaro che Jovetic, se torna quello dell'ultimo anno a Firenze, è un tanta roba. Ciao Pier, Andrea ci scrive: parlare di pallavolo, no. Domani lo famo, sì. C'è problema. Grazie per Luigi Pardo, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Signor Ferronato in redazione. Ciao a tutti. Ciao.